Inizia l'appuntamento del venerdì sera di Arden Davis su Rock FM. Come sempre, quindi il benvenuto dalla voce di Marco Garavelli, il saluto da parte del nostro sponsor Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1 e il nostro autore Simone, che ha preparato la prima e la seconda parte, così suddivisa. La prima parte, sapete, è il live album e oggi tocca ai Thin Lizzy con il loro album Live and Dangerous. E seconda parte, visto che oggi esce ufficialmente il nuovo album dei Nightwish, noi abbiamo avuto modo di avere con noi la nuova cantante Annette Olsen e Thomas, leader della band, che ci presenteranno proprio alcune tracce dell'album nuovo. Porremo alcune domande a loro su come è stata la scelta della nuova vocalist e su come si è arrivati alla registrazione di questo album. Tutto nella seconda parte, ma la prima, quella che partirà fra breve, ci permette di ascoltare alcune importanti, bellissime canzoni di questa storica band che si chiama Thin Lizzy. Il live album ne hanno pubblicati molti, quelli fondamentali sono il primo e il secondo, entrambi doppi, e questo è il primo, uscito nel 1978, raggiunse la posizione numero 2 in Inghilterra. Live and Dangerous è il titolo di questo lavoro, è un doppio LP per un totale di 17 canzoni registrate nel tour di supporto ai due album Johnny the Fox e Bad Reputation, due tra gli album più importanti della formazione che all'epoca, purtroppo poi è scomparso, ne parleremo, era capitanata da Phil Lynott, basso e voce, leader del gruppo, doppia chitarra Brian Robertson e Scott Gorham, e poi alla batteria c'è Brian Downey, quindi grossi musicisti. Il pezzo con il quale iniziamo, anche quello che apriva il concerto, è la bellissima Jailbreak. Don't you dare to try and stop us. Jailbreak è il primo brano che abbiamo ascoltato e ritrovato da questo Live in Dangerous. Abbiamo detto che il vinile in questione va a raccogliere alcune date del tour del 1976 di Johnny the Fox, questo era il titolo dell'album, e sono state registrate il 14, il 15 e il 16 di novembre all'Hammersmith Odeon di Londra. E poi il tour del lavoro successivo, Bad Reputation, del 1977, dove la data registrata è il 28 di ottobre, questa volta al Seneca College Fieldhouse a Toronto in Canada. Da queste quattro date hanno catturato e preso le canzoni di cui si compone appunto questo bellissimo Live in Dangerous. Ricordo anche che qualcuno di voi magari avrà visto l'ultima formazione dei Thin Lizzy, quella che ha suonato il 2 di giugno nella prima giornata piovosa del Gods of Metal, e loro insieme agli Scorpion sono stati sicuramente agli Heaven and Hell tra le band più brave, più acclamate proprio al Gods of Metal qua a Milano. Il gruppo nasce e arriva dall'Irlanda, precisamente da Dublino, e ha proposto da sempre dell'ottimo hard rock melodico. Il leader del gruppo era il bassista Phil Lynott, che purtroppo, come vi dicevo, è scomparso nell'annata 1986. Loro nacquero nel 1969 e pubblicarono un singolo passato praticamente inosservato. Ottengono però lo stesso un contratto discografico con la Decca Records e arrivano così al 1971 con l'album d'esordio. Le vendite non furono entusiasmanti nonostante il supporto delle radio. Il secondo lavoro, Shades of the Blue Orphanage, del 1972, si segnala per il singolo Whiskey in the Jar, che è una cover che riesce ad inserirsi nei posti più alti delle classifiche inglesi e soprattutto dalla nazione da cui provengono, cioè dall'Irlanda. Altro brano che andiamo ad ascoltare, un classico. Ricordo che questo lavoro è stato prodotto dagli stessi Thin Lizzy insieme a Tony Visconti, questo doppio LP uscito nel 1978. Poi naturalmente ci sono tutte le riproposizioni e ristampe in CD. Il pezzo che andiamo ad ascoltare si intitola Cowboy Song. I am just a cowboy, lonesome on the trail. A starry night, a campfire light. The coyote call and the howling winds will. So I'll ride out to the woods alone. Lord, I'm just thinking about a certain female. Canzone del cowboy, questa cowboy song per naturalmente la voce del grande Phil Lynott che abbiamo ritrovato con la sua band Thin Lizzy, che stiamo proponendo da Live and Dangerous con i brani estratti, parte dei brani di questo doppio vinile. Continuiamo con la storia, la carriera di questa band. Arriva la pubblicazione del terzo album e c'è da segnalare l'abbandono del chitarrista e cofondatore, cioè Eric Bell, per motivi di salute. C'è da segnalare che ebbe anche un collasso una volta durante un concerto. Per rimpiazzarlo fu dapprima scelto Gary Moore, che dopo un tour lasciò la band. Pertanto furono scelti ben due chitarristi, portando così la line-up da 3 a 4 elementi. Registrarono così il quarto album, Ninth Range, dal quale fu tratto il singolo di successo dal titolo Filomena o Filomena, che dir si volge. Il grande successo però a livello internazionale arriva nel 76 con il celebre Jailbreak, che raggiunge la posizione numero 10 in Inghilterra, 18 in America, e partono in tour negli States con il top delle band dell'epoca, cioè Styx, i Journey e la formazione dei Rush. Un altro estratto che andiamo a proporre proprio da questo doppio lavoro, Live and Dangerous, uscito nel 1978, è sicuramente uno dei motivi di maggior successo della band, cioè un singolo che anche a livello commerciale, poi ne parleremo, andò molto molto bene, ovvero sia il brano intitolato The Boys Are Back in Town. The boys are back in town. singolo di grande successo incluso nell'album in studio Jailbreak. Questa The Boys Are Back in Town dal vivo per Live and Dangerous, la formazione dei Thin Lizzy in Hard and Heavy. Continuiamo quindi a parlare di loro, della loro storia. Diciamo subito che il successo dopo Jailbreak, almeno in Inghilterra, viene bissato con il successivo album Johnny the Fox, pubblicato nello stesso anno, siamo nel 1976. Purtroppo però durante il tour di supporto ai Queen, uno dei due chitarristi, ovvero sia Brian Robinson, si infortuna ad una mano, sarà costretto a ritirarsi. Il suo posto fu nuovamente preso da Gary Moore, che resterà nella band fino al 1978. Il successo è sempre maggiore, tanto che il nuovo lavoro del 77, cioè Bad Reputation, arriva al quarto posto in Inghilterra, nono in Svezia. A coronamento dell'ascesa viene pubblicato appunto questo primo doppio album dal vivo. Ne sono seguiti altri, ripeto, nella loro carriera, ma io cerco sempre di proporre quello più importante, almeno a mio avviso, insieme a quello di il parere naturalmente anche del nostro autore Simone. Da Live and Dangerous, altro brano che andiamo a proporre, altro motivo firmato da Phil Lynott, anche se alcune volte va a proporre delle cover. Ad esempio su questo album c'è anche Rosalie, che è un pezzo scritto da Bob Seger, un altro cantautore però questa volta americano. Lui a volte, devo dire che ascoltandolo, mi ricorda qualcosa della voce di Springsteen, eh? Quindi andiamo comunque a riproporre un altro grande successo, un altro singolo dell'epoca, Dancing in the Moonlight, Thin Lizzy. I always get chocolate stains on my pants. And my father is going crazy, says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright, dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. I won't get out until Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the ends. Dancing in the moonlight. It's got me in a spotlight. It's alright, dancing in the moonlight on this long, hot summer night. Helping hands on saxophone from the Graham Parker Band. Like you to make a lot of noise. John Earl on saxophone. Dancing in the moonlight, dancing in the moonlight, applausi se li meritano naturalmente. Bravi, bravi. Thin Lizzy, questa era la bellissima Dancing in the Moonlight. Allora, abbiamo parlato di Gary Moore che rientra nella band e di altre pubblicazioni. Ci sono un po' di aneddoti però da segnalare, perché a un certo punto Gary Moore, a metà del tour americano, abbandona nuovamente la band e la formazione deve assumere il cantante chitarrista degli Ultravox, che si chiama Mijur, che non c'entra niente con il loro genere di musica, che propone un sound più elettronico, eccetera. Però gli dà una mano, perché è da anni amico di Phil Lynott. Lui era rimasto appunto senza chitarrista, si offre volontariamente di concludere il tour americano. I Thin Lizzy, al termine di questo tour americano, ritornano in Europa e Adrian Vandenberg sembra il favorito tra i nuovi chitarristi. Ma poiché la band non vuole più imbattersi in personaggi dal carattere piuttosto bizzarro come Gary Moore e Brian Robertson, decide di dirigersi in una direzione opposta, ovvero sia danno spazio a Snowy White, chitarrista di stampo blues che aveva collaborato e accompagnato dal vivo anche i Pink Floyd. Con lui in effetti esce l'album Chinatown, che è il disco più blues che i Thin Lizzy abbiano mai prodotto. Però dobbiamo dire, dopo un altro lavoro che si intitola Renegade, un lavoro piuttosto modesto, viene rimpiazzato Snowy White da un altro virtuoso, cioè John Sykes, che aveva già suonato nei Tigers of Pentang. Pubblicano Thunder and Lightning, che è sicuramente l'album più heavy che i Thin Lizzy abbiano mai pubblicato. Però arrivano sempre altri problemi. In effetti questa volta è Scott Goran che apre la crisi, cioè l'altro chitarrista. E lo stesso Lynott ha visto troppi musicisti che continuavano ad andare, venire, eccetera. Decide quindi di prendersi un periodo di riposo, di bloccare, diciamo, la storia della band e di dedicarsi alla carriera solista. In effetti anche lui va a pubblicare alcuni album solisti che trovate ancora tutt'oggi. Purtroppo però arriviamo al 4 gennaio 1986, che è la data piuttosto tragica, perché il leader, appunto Phil Lynott, muore dopo essere stato in coma per un paio di settimane, purtroppo per overdose. La band poi si è riformata e quindi per vari tour, soprattutto dal vivo, ma non mi risulta che abbia mai pubblicato nuovi album sotto questa denominazione. Nel 1996 c'è stata la prima reunion con al basso Marco Mendoza, che tuttora ne fa parte, e negli anni ha subito tanti cambi di lineup. Diciamo che l'unico membro storico della band è a tutt'oggi il chitarrista Scott Gorham, in formazione dal 1974. E noi siamo in dirittura d'arrivo a questo punto, con un altro brano, quello che chiudeva questo doppio album. Ricordo la formazione di questo ottimo Live and Dangerous del 78: Phil Lynott voce e basso, Scott Gorham, Brian Robinson le due chitarre, Brian Downey alla batteria. Andiamo a concludere con un altro classico della band, uno dei brani all'epoca, ripeto, siamo alla tour del 76-77, l'album pubblicato nel 78, il brano più heavy si intitola The Rocker, sulle cui note io mi congedo da voi per questa prima parte. Ci ritroveremo nella seconda con l'intervista insieme ai Nightwish. I'm A poco più di 3 anni dal precedente fortunato Once, uscirà il 28 di settembre il vostro nuovo 6° album in studio dal titolo Dark Passion Play. Mai come per questa uscita c'è molta attesa, visto l'importante cambio di line-up con l'ingresso della nuova cantante Annette. Evitando di parlare del motivo dell'abbandono della precedente vocalist, puoi presentarci la nuova cantante ed anche quando e come avete deciso che lei fosse la scelta giusta per i Nightwish? Certo, questa adorabile ragazza al mio fianco è Annette Olson. Viene dalla Svezia ed è stata una delle prime ad inviarci un demo dopo che Tarja è fuoriuscita dalla band. Credo fosse il novembre del 2005. Quanti demo sono arrivati? Circa 2000. E li avete ascoltati tutti? Certo, uno ad uno. Ci è occorso un anno e mezzo, ci è subito piaciuta al primo ascolto, ma abbiamo continuato ad ascoltare tutte le candidate e di persona. Abbiamo incontrato una decina di ragazze su 2000, un buon dato per le statistiche. E tra tutte 10, lei è risultata la migliore di tutte in ogni senso. Annette, quando hai cominciato a pensare che il tuo ingresso nei Nightwish sarebbe stato più che una speranza? Come dire Higher Than Hope, utilizzando il titolo di una canzone proprio dei Nightwish? Prima di tutto, quando ho spedito il demo, non speravo in nulla. Poi ho ricevuto la prima risposta e tutto è cominciato. Così ho desiderato sempre più di far parte della band. Ho anche pensato che se avessero voluto cambiare stile, più vicino al rock, sarei stata la persona giusta. Annette, tu sei la straniera della band, dato che sei svedese. Come è cambiata la tua vita ora e come speri possa cambiare in futuro? Beh, sicuramente è cambiata. Non sono più una sconosciuta in un certo senso, soprattutto in Finlandia. Così è cominciata una nuova vita. Sicuramente sarà un duro lavoro e ci saranno molti concerti. Sì, è una buona cosa. Un cantante è sempre spaventato perché non sai mai cosa puoi aspettarti dalla paura che puoi avere. Ma penso sarà divertente, puoi dormire, mangiare e rilassarti. Annette, con gli Allison Avenue cantavi in un contesto AOR molto melodico. Per il cantato operistico tipico dei primi lavori dei Nightwish, stai facendo alcuni studi particolari o le canzoni dal vivo verranno riarrangiate? Modificherò le canzoni. Ho un insegnante di canto con il quale mi allenerò a cantarle. Ma il mio cantato non sarà operistico. Ultima domanda inerente al nuovo ingresso. Come avete fatto a nascondere la sua identità per tutto questo tempo, dato che su internet abbiamo letto diversi nomi che circolavano come nuova vocalista dei Nightwish? Nasconderlo non è stato molto divertente, ma lo è stato nel vedere i mass media, perché credo che ogni cantante femminile di questo mondo sia stata indicata come la nostra nuova vocalist. È stato molto divertente vedere che ogni giorno i mass media saltavano fuori con nuovi nomi e nuovi volti della nuova cantante. Da parte nostra abbiamo dovuto fare molta attenzione a non farci vedere insieme, infatti andavamo in hotel diversi, prendevamo voli diversi o al massimo, se eravamo sullo stesso volo, eravamo seduti molto lontani. Siamo rimasti sorpresi di essere riusciti a mantenere il segreto così a lungo. Wish album Dark Passion Play, and this track is called 7 Days to the Wolves. Album Dark Passion Play, and this track is called 7 Days to the Wolves. Arriviamo alla musica del nuovo Dark Passion Play. Seguendo la vostra discografia, c'è stata una notevole evoluzione nel vostro sound. Once è stata la naturale evoluzione di Century Child, con un'imponente orchestra, chitarre molto più aggressive ed un cantato più melodico. Con il nuovo album avete ulteriormente evoluto il vostro sound. E se sì, in che direzione? Come descrivereste musicalmente il nuovo lavoro? For me, Dark Passion Play is merely a natural sequel. Da parte mia considero Dark Passion Play il naturale proseguimento di quello che è stato Once, un po' come nuotare nelle stesse acque. Ci sono alcuni elementi in comune, ma è molto più pesante in alcuni passaggi. Ed i testi sono più tristi ed oscuri rispetto al passato, e soprattutto la grande differenza sono le parti vocali. Si tratta di testi fantasy o esperienze personali? A bit of both, but un po' entrambi, ma in un certo senso è come un album fratello di Century Child, perché è molto personale in qualche modo. In many ways. Chi è il produttore dell'album? Sono io. In che studio sono avvenute le registrazioni? Abbiamo utilizzato 4 diversi studi. Sì, uno per la voce, uno per le parti di batteria, uno per le parti con l'orchestra, mentre il mixaggio è avvenuto presso i Finvox Studios di Helsinki. Annette, pensa che Tuomas in questo momento non ci stia ascoltando. C'è un qualche cosa che cambieresti quindi del nuovo album? No, non cambierei nulla. Tutto è così perfetto. Ok. Riguardo la relazione tra la copertina e la tracklist del lavoro, notiamo che la traccia The Poet and the Pendulum ha una durata di ben 14 minuti e dovrebbe essere la traccia più lunga che abbiate mai composto. Ce ne potete parlare? Questa canzone è in un certo senso l'anima dell'album. Per diverso tempo abbiamo pensato di intitolare il nuovo lavoro proprio The Poet and the Pendulum. Una volta che avrai il CD tra le tue mani e aprirai la prima pagina, allora capirai quello che significa la copertina. In passato avete avuto diversi special guest, quali Tony Cacco dei Sonata Arctica e per l'ultimo album John Two Hawks. Saranno presenti degli special guest anche per questo nuovo album? O avete pensato a qualcuno in particolare? Ci saranno degli artisti dell'area celtica, degli ospiti molto famosi per questo genere. Ci sarà Troy Donockley, che suona le Willean Pipes. Uno strumento acustico? Sì, sono tutti strumenti acustici. Poi c'è Nolly Casey, che è un'artista molto famosa. Celtic fiddle. She's a very famous folk musician. E anche circa 230 musicisti che fanno parte dell'orchestra. Una grande orchestra? Circa 66 elementi, un'orchestra malvagia. Come primissimo singolo avete scelto Eva, un brano molto lento e molto melodico. Come mai questo tipo di scelta? Personalmente non considero Eva il nostro primo singolo. Amaranth sarà il primo singolo. Eva è un assaggio del nuovo album e una canzone per presentare la nostra nuova cantante e la sua voce. Puoi anticiparci qualcosa del terzo singolo? Sì, lo abbiamo già scelto e sarà la traccia numero 2, Bye Bye Beautiful. Avete già registrato i video? 2 video, Amaranth, Bye Bye Beautiful. Avete utilizzato degli attori? Per quanto riguarda il video di Amaranth, dietro si cela una storia molto forte, mentre Bye Bye Beautiful è più allegro. Vista l'esperienza del precedente Once, che era disponibile in 4 versioni, avete previste differenti edizioni anche per questo nuovo? Sono sempre loro che decidono di fare diverse versioni. È una decisione che ha una doppia faccia. Da una parte è una cosa positiva per i fan che collezionano tutti gli articoli di una band e dell'altra. Non lo è perché non possono comprare tutto. Parliamo così del tour. Avete pianificato già un tour per l'Europa? Potete anticiparci qualche cosa? Magari anche di qualche idea di band di supporto? Il tour comincerà subito dopo l'uscita dell'album. Dapprima andremo negli Stati Uniti, poi un tour in Scandinavia, quindi in Giappone ed Australia. Ed infine un intenso tour europeo che comincerà a metà febbraio. E finirete in estate con i grandi festival o no? Sì, prendiamo parte a molti festival. Credo termineremo il tour nell'estate del 2009. Durerà circa 2 anni. Personalmente preferisco vedere una band in un suo concerto solista, in un contesto da soli, piuttosto che vederla ad un festival. E per voi è meglio suonare in un proprio vostro show oppure in un festival? Per me è meglio ad un solo nostro concerto, ma credo che lei preferisca i festival. We'll see. Sì, forse. Vedremo. Credo che sia meglio suonare ad un proprio concerto. Ma sai, nei festival puoi farti conoscere a persone che generalmente non verrebbero a vederti. Okay. Ringraziamo sia Thomas che Annette. Abbiamo pronto per voi l'ultima canzone estratta da questo nuovo album dei Nightwish. Marco Gravelli vi ringrazia, si congeda da voi per questa sera. Ci ritroveremo al prossimo appuntamento di Hard and Heavy. Ciao! Nightwish album Dark Passion Play, and this track is called Bye Bye Beautiful. Album Dark Passion Play, and this track is called Bye Bye Beautiful.